16 novembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 16 novembre. Stamani Ada ha pianto e strepitato con la mamma perché dice che non è giusta che anche Virginia si sposi mentre lei deve marcire in casa condannata a restare zitellona come la zia Bettina. E che se il babbo dà il permesso a Virginia di sposare un socialista, non c'è ragione di proibire a lei di sposare il De Renzis che è povero, ma è un giovane distinto e che in seguito potrà farsi una bella posizione. Fine del 16 novembre.